calcio da centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Visto che noi siamo stati cornuti e mazziati, no? Quindi avrei voluto vedere chi ha parlato, chi non ha guardato in casa propria, ha guardato noi, se avesse subito tutto quello che abbiamo subito noi, cosa avrebbe fatto. Di sicuro, dopo quello che abbiamo visto, ancora di più si può dire che abbiamo fatto la cosa migliore. Se noi fossimo rientrati in campo e avessimo trovato gli arbitri davanti, che poi pure sono stati premiati, cosa avrebbe potuto succedere se i nostri giocatori o qualcuno di noi avesse continuato un pochino a dire le cose che pensava, quello che aveva visto, quello che aveva sentito? La grande iniquità delle valutazioni di questa partita che ci sono state, sia a livello tecnico che a livello di applicazione delle regole. Allora io credo, e lo dico con grande forza, ancora più forza, che la decisione del Napoli è stata la migliore. A mente fredda vi dico che c'è stato un momento, e ve lo può dire anche la società, che mi volevo dimettere, perché mi è venuto veramente la voglia di smettere, no? Oh, ve lo ricordate, eh? Questo è un Mazzarri d'epoca, Mazzarri di un anno fa, dopo la Supercoppa di Pechino. Ci siamo, perché fra due giorni, domenica, si rigioca la Supercoppa, che anche in questa stagione arriva in un clima di polemiche, di tensioni, a partire dalla scelta della sede, la divisione dell'incasso, Juventus e Lazio che hanno a lungo litigato, calcio italiano che certamente non ha fatto una bella figura nei confronti dei cinesi, ma non solo, e prima o poi i cinesi si scocceranno di inseguirci. Già si parla di contatti, ad esempio, per portare dalla prossima stagione la Supercoppa francese in Cina, a Pechino, e chissà che i francesi non rispettino il contratto con maggiore attenzione di quanto abbia fatto il calcio italiano in questi anni. Al di là di tutto, però, fra due giorni si parte, inizia davvero la stagione, poi ci saranno i preliminari, poi il campionato. Io saluto Enzo Bucchioni, direttore del QS. Ciao Enzo. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati. Torniamo indietro di un anno, il clima io spero sia diverso, però certamente questa è una partita che darà, da questo punto di vista, secondo me, il termometro a tutta la prima parte della stagione, e non sto parlando del termometro tecnico. Ma sì, sicuramente queste tensioni ce le portiamo dietro dal campionato precedente, io credo, come l'anno scorso. Tra l'altro, fammi fare un inciso, se risentisse oggi quelle parole che ha detto un anno fa Mazzarri, io spero si pentirebbe amaramente, perché sono cose da non dire mai. Io credo un po' si vergognerebbe, Enzo, anche. Si vergognerebbe di sicuro. Io volevo stare un pochino più leggero, ma sono parole vergognose, allora diciamo la verità, perché quando partecipano a una manifestazione sportiva i canoni devono essere sempre quelli. Quando vinci, quando perdi, devi rispettare le regole, devi rispettare l'arbitro. Purtroppo il nostro campionato è così. Non aver partecipato l'anno scorso a questa premiazione del Napoli è una cosa vergognosa. Tra l'altro il Napoli è stato punito. Io spero che quest'anno c'è una manifestazione un pochino più serena sotto questo aspetto, anche se, come dicevi tu, le brutte figure le abbiamo già fatte, brutte figure internazionali, perché non andare all'estero, non portare il nostro calcio all'estero, il nostro business all'estero, che è così poco appetibile, e è un errore colossale, perché siccome siamo nella globalizzazione anche calcistica, dobbiamo venderlo questo prodotto, renderlo più pulito, più vendibile, e poi venderlo. Purtroppo la Lega non ci sente, siamo qui come i polli di Renzo, sempre nel solito cortile a litigare, e speriamo non succeda in campo, almeno questa volta. Sì, io mi metto nei panni dei poveri cinesi, avevano queste tre finali di Supercoppa da ospitare nell'arco di 4, di 5, di 6 anni, poi ci sono le deroghe, poi ci sono le proroghe, però la verità è che tutti gli anni si fa a gara per non andare, dopo aver incassato non facciamo una bella figura. Io l'ho detto prima, c'è la Francia che sta trattando per chiudere a partire dal 2014 o dal 2015 con i cinesi l'idea di portare la Supercoppa a Pechino, non vorrei che ci svegliassimo un giorno accorgendoci di essere stati superati anche in questo, che pure era un terreno in cui eravamo arrivati per primi, almeno per una volta. Ma io credo proprio di no, anche perché il nostro calcio ha sempre un appeal internazionale, non a caso Lippi, il nostro CT, campione del mondo, sta allenando lì e sta facendo molto bene, ci sono altri allenatori che sono stati contattati, dico spero, perché purtroppo il nostro calcio all'estero non ha appeal, lo dicevo prima, perché non sappiamo venderlo, ma anche, io parlo anche dei diritti televisivi, ci sono altri campionati che sono meno belli del nostro, meno avvincenti dal punto di vista tecnico, che pure incassano milioni di euro dai diritti televisivi, cosa che non sappiamo fare noi, magari litighiamo per un milione di euro in più da chiedere alle pay TV nel nostro territorio, poi non vendiamo all'estero il nostro prodotto calcio, che tu vai da qualsiasi parte del mondo, i nostri campioni sono conosciuti, riconoscibili. Purtroppo quando parliamo di movimento da rivedere, le regole da rinnovare, e siamo sempre qui, i soliti personaggi che non cambiano mai, ci vorrebbe una bella rottamazione, tanto per prendere a prestito qualcosa dalla politica, qualche idea politica venuta negli ultimi anni anche nel calcio, una rottamazione di vecchie idee per farle per entrare con idee nuove, con più moderne, con il calcio è un business, lo dicevamo prima, e come tale vanno applicate le regole del business. Litigare fra di noi non porta mai a nulla. Sì, poi torniamo su questa Supercoppa che nasce comunque sotto cattivi auspici da questo punto di vista, perché Juventus e Lazio sono finite per tribunali per la questione della sede, degli incassi, anche questo poteva certamente essere gestito meglio. Il nostro calcio, caro Enzo, continua ad avere un certo appeal. Settimana scorsa io ho trovato meravigliosa la foto che ha fatto il giro del mondo, la notizia era quella di padre e figlio ritrovati nella giungla dopo 40 anni in Vietnam, e al loro fianco questo soccorritore con la maglia dell'Inter. Questo significa che continuiamo a avere un certo appeal. Una foto che è uscita nei giorni in cui Massimo Moratti, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, certificava la necessità di vendere l'Inter proprio perché aveva detto, dal punto di vista commerciale, era stato incapace di dargli quella profondità internazionale che pure un marchio come quello dell'Inter, ma più in generale io credo come quello del marchio del calcio italiano, merita. Ma sì, guarda, assolutamente, questo è un passaggio obbligato. Io allargo il discorso. Siccome l'hanno fatto grandi marchi della moda italiani, sono diventati leader nel mondo, siccome l'hanno fatto grandi marchi del settore alimentare italiani, il famoso Made in Italy che sta dominando il mondo, lo fa in molti settori commerciali. Il calcio è stato incapace di farlo perché non ha avuto una visione manageriale, perché non si è allargato a una gestione extra calcistica, perché il problema è gestire il calcio fuori dal calcio, cioè avere delle idee nuove, andare a venderlo all'estero. Moratti l'ha capito, spero prima di altri riesca a farlo, perché sta passando da una gestione familiare, forse è stato un passaggio obbligato per una questione finanziaria, economica, questo non lo so. L'Inter era la famiglia patriarcale che gestisce una squadra di calcio per eccellenza, se l'ha capito Moratti e cerca di liberarsi di una cosa sua o quantomeno di far entrare qualche socio per dare al marchio Inter una continuità che vada oltre il suo nome, oltre Moratti, è un passaggio fondamentale che devono fare tutti, deve cominciare a fare anche il Milan, che ha le stesse difficoltà di gestione dal punto di vista economico. La Juventus lo sta facendo perché ha un marchio internazionale dell'automobile che sta cercando di affermare, quindi la Juventus è un veicolo importantissimo, deve farlo tutto il calcio italiano, ma deve cominciare la Lega, deve cominciare la Federcalcio, bisogna cominciare dalla testa a dire il nostro calcio è il più bello del mondo, siamo tutti d'accordo, al pari di quello brasiliano, andiamolo a vendere, andiamolo a commercializzare, facciamo entrare soci nuovi, ma bisogna modificare le regole, perché qui non viene nessuno? Questa è un'altra domanda. Perché in questo momento non siamo appetibili? Io credo non c'entri soltanto la legge sugli stadi, sull'impiantistica che è morta insieme alla passata legislatura, in questo momento, e per fortuna dico, le priorità sono altre, e quindi chissà quando riuscirà dal cassetto quella legge, ammesso che quella sia la soluzione giusta, non ci siano altri interessi. Però Enzo, torniamo a Juventus e Lazio. Io ti dico il mio pensiero, che è questo: ci arriva la Lazio da favorita, mi sembra che la Juventus, al di là dei problemi emersi nel corso della tournée statunitense, sia proiettata più sulla seconda metà della stagione, nella quale spera di trovarsi a giocare da protagonista alla Champions, farà il conto di dove si troverà in campionato, perché comunque Conte lo ha detto in tutte le lingue, l'obiettivo è quello di scrivere una pagina di storia vincendo il terzo scudetto consecutivo, però tutto questo significa che si deve sacrificare qualcosa all'inizio. Mi sembra che la Lazio abbia lavorato in silenzio, per la Lazio la Supercoppa sia un obiettivo stagionale importante e questo può fare la differenza. Sì, sono sostanzialmente d'accordo. Per la Lazio battere la Juventus può significare qualcosa. Invece questa partita per la Juventus può essere soltanto un passaggio. Mi sembra anche dal punto di vista fisico, la preparazione che è stata fatta in questo mese e mezzo, la Juventus si è attesa ad essere in forma all'inizio di settembre, quando comincerà la Champions, quando ci saranno obiettivi più importanti e anche per durare per tutta la stagione. La Lazio invece ha questo obiettivo sotto mano, vuole conquistarlo subito per dare anche ai propri tifosi un segnale importante, perché la Lazio sta facendo bene da almeno 3 anni in campionato, non benissimo, bene, però senza conquistare grandi trofei. A parte la Coppa Italia, che è stata una bella soddisfazione contro la Roma, però questo contro la Juventus può avere un senso ulteriore. Quindi io credo che la Lazio si presenterà molto più concentrata, molto più determinata, con quella fame che la Juventus forse potrebbe non avere per un obiettivo minore come questo. Io non sono stupito dalle difficoltà di Conte con Tevez e Llorente a cambiare anche un po' pelle alla sua Juventus, perché non era solo l'inserimento di 2 top player o presunti tali in un telaio che funzionava, era credo proprio un cambio di mentalità quello che doveva fare e deve fare ancora Conte. A me non stupisce che stia facendo questa fatica, penso però che sia un lavoro che, se riesce, proietta la Juventus in un'altra dimensione, le fa fare un salto di qualità. Sì, è un passaggio delicato questo, è stato sottolineato più volte anche dagli stessi addetti ai lavori, è cominciato Buffon addirittura a giugno nella tournée nella Confederation Cup della Nazionale a dare questi segnali d'allarme, perché è difficile confermarsi, perché la Juventus ha giocato negli ultimi 2 anni mentalmente, molto mentalmente, se mi concedete questo, cioè sempre al massimo della concentrazione, al massimo della determinazione, una squadra che non era la primissima dal punto di vista tecnico, lo è diventata proprio con questa grande applicazione negli schemi, con questo grande lavoro settimanale. E confermarsi è sempre difficile, tanto più che negli anni scorsi la Juventus è stata favorita negli allenamenti settimanali, il primo anno addirittura di Conte non aveva impegni europei, quindi si è potuto allenare con tranquillità. Ora devi giocare per obiettivi la domenica, il mercoledì, costantemente, poi ci sono le nazionali e questo parco giocatori non è stato rinnovato molto. Io mi chiedo se fosse stato più logico magari cambiare qualche figura di secondo piano, rinnovare sostanzialmente il gruppo, che non affidarsi a 2 giocatori che hanno delle qualità ma anche delle controindicazioni. Penso a Tevez, un giocatore che ci ha detto che voleva smettere, sicuramente tecnicamente è importantissimo, però avrà le motivazioni giuste per rimboccarsi le maniche e lavorare? Non lo so. Llorente non è mai stato quello che si usa a chiamare un top player, preso a parametro zero. Ho qualche dubbio su queste soluzioni. Io per top player intendo qualcun altro. La Juventus doveva portare a casa un Suarez, un Higuain, ma anche uno Jovetic, ecco, quelli potevano essere giocatori. Detto magari, spero per i tifosi della Juve di sbagliare, mi sembra una soluzione di ripiego questa coppia che è stata adottata. Alla fine poi scopriranno che Vucinic è meglio di tutti e 2 questi che hanno preso. Sì, anche se probabilmente Vucinic può essere meglio di tutti e 2, ma nel complesso secondo me il reparto preso nella sua interezza, quindi Vucinic, Matri, Quagliarella, Giovinco, che erano le punte dell'anno scorso, con quello che potrà essere quest'anno, potrà fare un salto di qualità. Per chiudere, Enzo, abbiamo ancora un paio di minuti. Per me comunque la Juventus resta una spanna sopra le altre. Nella mia griglia di partenza metto il Napoli, malgrado qualche difficoltà che io ritengo difficoltà di crescita, e poi forse la Fiorentina e il Milan. Per le altre secondo me non c'è campionato, anche se ti dico mi incuriosisce molto la Roma, perché stranamente, secondo me stranamente rispetto a quelle che erano i punti di partenza, sta costruendo una squadra molto competitiva e sta lavorando per una volta in silenzio, un po' come i cugini della Lazio. Sì, comincio proprio dalla Roma, che è la cosa che intriga un po' tutti, perché dobbiamo capire questo allenatore se saprà adattarsi al calcio italiano, se saprà mettere in pratica le sue idee anche qui da noi, perché hai ragione, sicuramente il parco giocatore è importante, ci sono dei giovani interessantissimi, dei potenziali campioni che nessun'altra squadra ha in numero così massiccio come alla Roma, quindi diamo la palla all'allenatore. Poi per il resto sono d'accordo, la Juventus, nonostante le cose che abbiamo detto poco fa, è al di sopra di tutti, anche nei pronostici per lo scudetto. Poi il Napoli ha cambiato allenatore, ha cambiato progetto tattico, ha preso dei giocatori importanti, ma vediamo se saprà confermarsi sia in Champions che in campionato. La Fiorentina ha comprato il centravanti della nazionale tedesca e del Bayern di Monaco, che ha vinto tutto. Sì, secondo me sulla Fiorentina si sottovaluta l'impatto dell'Europa League, attenzione, perché io non so se Montella ha in mano una rosa che regga il doppio impegno. Negli anni scorsi abbiamo visto quanto pesa, quanto è pesato ad esempio per il Napoli, potrebbe essere un parallelo, l'Europa League, quanto è pesata per l'Inter l'anno scorso con Stramaccioni, stiamo parlando di 7, 8, 10 punti persi semplicemente da settembre a dicembre. Sono d'accordo, poi soprattutto per la Fiorentina è finito l'effetto sorpresa, quest'anno lo aspettano tutti, bisogna vedere questa sorta di crisi di crescenza a cosa porterà, se veramente la consacrazione o darà qualche problema sia di gestione del gruppo sia di gestione dell'ambizione, ecco questo perché dal punto di vista tecnico la squadra secondo me c'è tutta. Per quanto riguarda il Milan, l'ultima cosa della quale parliamo, non mi sembra sinceramente in grado di poter competere per lo scudetto, ha bisogno di rinforzi ulteriori, vediamo se Galliani riuscirà a fare il solito miracolo nelle ultime ore di mercato. Soprattutto mi pare che il centrocampo debba essere rinforzato. Sì, ma anche dietro non scherza, ci si concentra sull'attacco. Però secondo me i problemi sono da metà campo in giù. Grazie Enzo. Grazie a voi, è sempre un piacere. A presto a tutti, ciao. Grazie ad Enzo Bucchioni, direttore del QS. Noi ci fermiamo, c'è la pausa per le notizie sul traffico, poi torniamo, parliamo ancora di calcio, però scendiamo di un gradino e andiamo in Serie B. Tutti convocati. Lo facciamo allora un gradino in giù per parlare della Serie B. Siamo partiti dalla Supercoppa, facciamo un gradino in giù, anche se questa io credo sarà una stagione in cui la Serie B merita di essere seguita, perché ci sono grandi piazze come ad esempio Palermo che sono scese dalla Serie A, perché ci sono delle idee, perché ci sono anche degli esperimenti che potrebbero aiutare il calcio italiano a traghettarsi verso il futuro. Saluto Andrea Bodi, presidente della Lega di Serie B, buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta. Stagione piena di novità, è vero che siete il gradino sotto rispetto alla Serie A, però io credo possiate andare comunque orgogliosi anche del fatto di essere i fratelli minori. Ma l'orgoglio ce lo dà il gradimento dei nostri tifosi e comunque le valutazioni degli osservatori, quindi incasso il suo giudizio e tiriamo avanti, anche perché la nostra è un po' una lega delle novità sistematiche costanti, è una nostra caratteristica, così come siamo sperimentazione e valutazione dei giovani, così vogliamo anche dal punto di vista organizzativo e gestionale provare a fare qualcosa in più che poi può diventare patrimonio comune del calcio italiano. Sì, perché questa è una stagione piena di novità, lo anticipavamo, non sono soltanto novità tecniche, parliamo ad esempio di esperimenti interessanti come il salary cap, ci sono delle idee sul marketing, ci aiuta a delineare per capitoli, per sintesi, che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, lei già qualche tema tra i più importanti li ha introdotti, sicuramente il tetto salariale, che è una sintesi estrema di una serie di iniziative, di politiche che tendono al contenimento dei costi, o meglio la razionalizzazione dei costi, rappresenta un fattore trainante, è un po' una rivisitazione complessiva di tutte e due le dimensioni di una gestione, cioè contenimento, ottimizzazione dei costi, massimizzazione dei ricavi con l'altro progetto del marketing associativo B-Club. Questi sono i due assi portanti e poi l'architrave è piantistica, quindi B-Futura, lo sviluppo delle infrastrutture. Siamo convinti che già alla fine di questa, della prossima stagione, quindi alla fine del 2014, almeno un paio di stadi saranno ristrutturati. Quindi è partito ormai un filone che mi auguro incroci i destini della legge sugli impianti sportivi, che questa volta si spera che entro la fine dell'anno arrivi in porto. Ecco, questo è un aspetto che interessa. In Serie A si è mossa anche l'Udinese con o senza legge sugli impianti, significa che le cose si possono fare anche se quella legge serve, non stiamo dicendo che non è utile, anzi è, come è stato spesso sostenuto, la pietra angolare su cui il calcio italiano potrà costruire il suo futuro e andare a colmare quel gap rispetto al resto d'Europa, però si può fare anche senza, bisogna avere idee, bisogna avere coraggio, bisogna avere dei soldi, bisogna avere che cosa? La banca delle idee è quella sempre più difficilmente accessibile, più facile trovare risorse, più difficile trovare idee. Io resto della convinzione che questo paese purtroppo spesso ha bisogno di una legge per fare delle cose che si potrebbero fare a prescindere, e anche questa è una di questi casi. Lo stiamo dimostrando nel rapporto soprattutto con le amministrazioni, che è possibile anche senza legge. 11 amministrazioni comunali ci hanno dato la disponibilità a diventare in qualche maniera un test importante per questo progetto di sviluppo infrastrutturale che riguarda gli impianti di allenamento. È chiaro che dipende dagli interlocutori. Mettere assieme una società di calcio e un'amministrazione comunale non sempre è facile. La Lega svolge questa funzione di cerniera, e lo ha fatto anche elaborando un modello, diciamo così, una roadmap, si potrebbe anche dire, che consente di essere molto orientati a fare le cose che si devono fare senza troppi voli pindarici. A proposito invece del salary cap, lei si aspettava questa reazione da parte dell'ambiente, del sindacato dei calciatori? Si aspettava qualcosa di diverso? Come la valuta? Guardi, noi abbiamo fatto un passaggio, secondo me, non so se epocale, ma certamente molto molto importante. Il livello del confronto è stato, come al solito, molto positivo. Abbiamo preso anche in considerazione alcune valutazioni dell'AIC, perché questo è il nostro modo anche di tenere le relazioni tra le componenti. Credo che sia un modo rispettoso anche dello stare assieme. Quindi quelle considerazioni sono state utili, non tutti sono d'accordo, ma hanno votato in assemblea in 22 su 22, quindi le società sono certamente d'accordo, e poi misureremo col tempo il livello dell'efficacia, sapendo che i parametri economici potranno anche modificarsi, perché per noi questi sono strumenti, non sono obiettivi. L'obiettivo è quello di fare in modo che i bilanci delle società vengano messi in sicurezza, che non ci siano più i 40, 50, 60 milioni di euro di perdite ogni stagione, che non ci possiamo più permettere né come sistema calcio né come sistema imprenditoriale. A suo giudizio questo è un modello, magari con parametri, anzi certamente con parametri diversi, esportabile anche nel calcio della Serie A? Credo di no. Il nostro è un calcio che ha caratteristiche evidentemente diverse e complementari. Siamo una tappa di transito, non abbiamo sbocchi a livello internazionale, c'è una competizione costante non solo per vincere lo scudetto, ma anche per accedere a Champions League, Europa League, e poi lì nasce ancora un altro confronto che è regolato dal fair play finanziario dell'UEFA. Credo che quello sia il parametro con il quale dovrà misurarsi la Serie A tutta. Sì, che in fondo poi costringe a rispettare dei parametri di rapporto tra costi di gestione, che in gran parte si traducono in stipendi, e ricavi che di per sé sono una sorta di salary cap che alla fine ogni club, ogni società sarà obbligata a rispettare. Lei è stato in corsa, a un certo punto sembrava anche il favorito nello scorso inverno per diventare il presidente di Lega Serie A. C'è un pizzico di delusione per come sono andate le cose? No, devo dire che è stata un'esperienza comunque importante. Ho raggiunto, diciamo, il 60% del consenso, soltanto una regola un po' più che alza un po' più l'asticella dei voti necessari non mi ha fatto raggiungere l'obiettivo, però mi sento talmente calato positivamente nella dimensione in cui sto e sono talmente gratificato che quell'esperienza, che ritengo comunque positiva, mi è stata utile e mi ha fatto verificare di persona alcune delle criticità, delle problematiche che fanno parte un po' della vita associativa della Serie A, ma sono ritornato molto volentieri nei miei panni. Mi perdoni se faccio un ultimo Prego. Passaggio relativamente proprio alla Serie A e alla competizione che c'è tra le squadre di Serie A e quelle straniere, specialmente spagnole. È di questi giorni l'ennesimo, diciamo, tentativo anche di dare una regolamentazione, una legislazione spagnola di favore per alcuni club rispetto agli altri. Sì, e non stiamo parlando di legislazione sportiva, ma di legislazione nazionale, perché il tema è delicato. Legislazione nazionale, questo vuol dire evidentemente che se stiamo in Europa dobbiamo starci a tutti gli effetti con le stesse regole, per quanto evidentemente ogni sistema paese abbia dei suoi equilibri, soprattutto dal punto di vista della fiscalità, ma bisogna trovare dei correttivi dal punto di vista sportivo che consentano una competizione equa, altrimenti è normale che poi ci siano delle sperequazioni anche nella capacità di attrarre i campioni. L'altro tema che volevo velocissimamente affrontare è il tema della diversificazione della struttura dei costi e dei ricavi. In fondo le nostre politiche, per quanto calibrate su una dimensione sportiva di secondo livello, vanno proprio in quella direzione. La possibilità, da un lato, per quanto riguarda i costi, di non concentrare, come è successo fino ad oggi, tutta la struttura sul costo del lavoro, chiamiamolo così. Noi ci stiamo piano piano abbassando sotto il 60% per cercare di tendere progressivamente fino al 50%, che è il giusto equilibrio che libera risorse per investimenti di altra natura, cosa che fino adesso non è avvenuto, sulle infrastrutture, sulla formazione, sui giovani, sui settori giovanili dei vivai. Così come per i ricavi, e noi abbiamo una forte concentrazione anche in Serie B, potrà sembrare paradossale, ma anche lì con diritti televisivi molto più contenuti, con un rapporto che per certi versi è anche mortificante, però la televisione ancora recita un ruolo importante. Dobbiamo provare, tanto più facilmente da noi, a mettere in equilibrio quella voce con i ricavi da stadio, il marketing, e quindi altre forme che rendano più equilibrato e meno rischioso anche nella prospettiva il conto economico. Presidente, abbiamo ancora un paio di minuti. La prima domanda è questa: ho letto che dal 2015 la Serie B potrebbe tornare al format a 20 squadre. Non ci credo finché non lo vedo. Il discorso vale poi anche per la Serie A e per le leghe minori, perché c'è sempre una certa difficoltà a fare una mossa che è certamente quella giusta, cioè di costringere il calcio italiano a una dieta che aiuterebbe i calendari e non solo. Davvero dal 2015 accadrà questo in Serie B? Deve accadere questo, nella misura in cui noi sono due anni che abbiamo già deliberato e l'unico fattore, ci sono due fattori che non hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo fino ad oggi. Il primo è che dobbiamo trovare un accordo con la Lega Pro, principalmente all'interno della Casa Federale, perché evidentemente per arrivare a 20 l'accordo con la Lega sottostante bisogna farlo anche nel gioco delle promozioni e retrocessioni. E secondo, che siamo rimasti ancora a 22 perché per fortuna 22 società ancora una volta, nonostante le difficoltà, si sono iscritte al campionato. Quindi noi non vorremmo mai fare una riforma grazie anche al fatto che qualche società fallisca, anzi facciamo di tutto perché, nonostante questo percorso così drammatico dal punto di vista imprenditoriale, tutte le nostre società si iscrivono. È successo anche quest'anno, c'era qualcuno che rischiava fino all'ultimo di non iscriversi e che alla fine Lega è rimasto dentro. La Lega ha fatto la sua parte, mentre in Lega Pro c'è stata una riforma coraggiosa per certi versi e anche anticipata, tant'è che dalla prossima stagione in Lega Pro saranno 60 le squadre, non più 69 come quest'anno. C'è stato il numero è precipitato nelle ultime 4 stagioni, ma anche ragione del fatto che decine di società purtroppo sono fallite. E per chiudere, la giustizia sportiva, questa è l'ennesima estate difficile anche per la Serie B. Lei l'anno scorso si era molto lamentato anche sulla tempistica dei processi. C'è stata in questi giorni la polemica anche per l'intervista al PM di Cremona, Di Martino, che ha detto a un certo punto non è detto che in futuro la giustizia ordinaria debba continuare a collaborare con la giustizia sportiva, così come stato in questa esperienza del calcio scommesse. Io ritengo che sia una priorità la riforma e soprattutto la riforma di questo rapporto fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Sinceramente non ho capito qual è il punto d'equilibrio anche a livello di tempi per far sì che poi le stagioni partano e partano in maniera accettabile. Guardi, io, per usare un linguaggio comprensibile a me e anche a chi ci ascolta, io credo che la priorità sia la credibilità, sia il rispetto, sia la reputazione, sia l'integrità, e tutto il resto deve essere in funzione di questi obiettivi, e tutto l'impegno, non di una sola componente, ma di tutto il nostro mondo, deve essere orientato a questo obiettivo. E credo che la collaborazione tra magistratura ordinaria e quella sportiva non sia una opzione nelle mani di un singolo soggetto, di un singolo magistrato, ma sia un vincolo che deve essere, secondo me, anche rappresentato da un accordo di carattere politico e istituzionale, perché altrimenti la giustizia sportiva non riesce a essere al passo con le degenerazioni dei tempi, non ha gli strumenti investigativi, non ha gli strumenti che possono consentire poi la certezza della pena, della quale abbiamo tremendamente bisogno. Mi auguro che ancora una volta, io ripeto la stessa frase, che questi siano tutti processi, per quanto andati per le lunghe, al passato, e che il presente e soprattutto il futuro ci consegnino pagine migliori del calcio italiano. Mi auguro soprattutto che tutto quello che è successo abbia insegnato qualcosa a tesserati e dirigenti e abbia chiuso qualche finestra e qualche porta, perché il nostro è un mondo sempre troppo aperto, troppo generoso, con la logica di essere un fenomeno popolare, spesso siamo una casa vulnerabile, dobbiamo probabilmente alzare il livello dell'attenzione, come abbiamo dimostrato di saper fare in questi due anni, tutti assieme, anche attraverso una collaborazione con le forze di polizia nazionali e internazionali. Dopodiché c'è il grande tema della riforma della giustizia sportiva in senso lato, che passa attraverso una decisione che è del CONI e che poi anche la Federcalcio saprà adottare anche sulla base delle richieste che la federazione nei mesi scorsi ha già inoltrato al CONI perché possano essere recepite, per dare certezza nei tempi, nei modi e nelle condizioni. E anche certezza alle società, si parla di responsabilità oggettiva, ma questo è tutto un altro capitolo. Noi invece siamo contenti di salutare la Serie B, che tra qualche giorno parte con la stagione che, lo abbiamo detto in apertura, è certamente la stagione delle novità. Grazie ad Andrea Bodi. Grazie a voi. Tutti convocati. E questo fine settimana cominciano a giocare anche quelli bravi, Ha iniziato la Bundesliga settimana scorsa, però fortunatamente non c'è soltanto la nostra Supercoppa, cominciano Liga e Premier League. Buon pomeriggio Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. E per fortuna che cominciano quelli bravi. Comincia la Liga, dai, partiamo dalla Spagna. Sabato Real Sociedad Getafe, Valladolid Athletic, quindi domani questi sono i due anticipi, c'è anche Valencia Malaga. E poi domenica Barcellona Levante alle 19 e Real Madrid Betis alle 21. Che campionato dobbiamo aspettarci? Perché non c'è più Mourinho, perché il Barcellona è passato attraverso quello che noi tutti abbiamo raccontato in questi mesi. Io faccio fatica a decifrarlo, devo dirti la verità. Beh no, è un campionato di per me invece di facile lettura. Io mi aspetto, ovviamente sarà un duello Real Madrid-Barcellona, per me con il Real Madrid leggermente favorito, e mi aspetto che queste due squadre non vincano meno di 33 partite, che farebbero 99 punti, e perché insomma su quelle che sono 38, togliamo i due scontri diretti, non vedo come nessuna delle altre squadre possa anche solo diciamo pareggiare contro le due grandi. È un campionato che ha perso, a parte nel caso di Real Madrid e Barcellona, tutte le altre squadre hanno perso i loro migliori giocatori. Il Siviglia, no? Navas, Negredo e alcuni giovani, il Valencia Soldado, il Betis Begnat, l'Athletic Llorente, non so, il Celta Iago Aspas e via dicendo. Tutte le squadre hanno dovuto cedere i loro migliori giocatori, sono andati via quasi 30 giocatori spagnoli dalla Liga, sono andati all'estero. Questi sono per me, sì, e quindi un campionato sono i numeri di una grande crisi che in fondo era strisciante, esisteva già da qualche anno, perché non è una scoperta di questi ultimi mesi, però evidentemente in questi mesi è esplosa in tutta la sua interezza, sempre alle spalle di Real Madrid e Barcellona, che insieme fatturano 1 miliardo di euro, se ne fregano altamente della crisi, non hanno nemmeno più il problema dei legami con le banche. Poi abbiamo letto l'Unione Europea potrebbe costringerli a cambiare forma societaria e smetterla di risparmiare qualche soldino di tasse, però intanto per pagare quelle tasse bisogna fare gli utili, i profitti, cosa che ad esempio da noi in Italia fanno in pochissimi, loro sono capaci. Una noia mortale, dai. Sì, insomma è un massacro, perché poi sì, la terza classificata probabilmente sarà l'Atletico, che mi sembra la squadra migliore, che però ha perso Falcao, ecco, non abbiamo citato prima, no? Un altro dei grandi campioni che è andato via. Hanno preso Villa a un prezzo ridicolo dal Barcellona, e poi hanno preso Leo Battistao, che potrebbe essere un po' una sorpresa, che è questo giovane brasiliano con passaporto italiano che veniva dal Rayo, e quindi i primi tre posti teoricamente sono assegnati. Per cui detto questo è difficile non dire che sarà un campionato noioso, perché poi c'è anche un problema tra virgolette tattico, nel senso che col fatto che si riempiono la bocca che bisogna giocare bene, così tutte le squadre piccole o le squadre minori magari devono giocare contro Real Madrid e Barcellona, sono quasi obbligate, hanno un obbligo morale a giocare bene, e quindi se ti esponi, figurati, Real Madrid e Barcellona possono farti anche 7 gol, per cui non possono presentarsi e fare un catenaccio tifoso, mettersi lì in 10 sulla linea. Sì, e roba da italiani che loro, esatto, disprezzano, non si fa, assolutamente. Non si fa. Quindi la maggior parte delle partite saranno delle goleade. Quindi andremo col pallottoliere, Filippo. Andremo col pallottoliere. Neymar che Ronaldo, insomma. Sfonderemo magari quota 50 gol, intendo, non di squadra, sì. 50 Cristiano, sì. 45 Messi. Andremo su questo, poi vediamo la nuova posizione di Cristiano, se Cristiano si avvicina ancora di più all'area, magari farà ancora più gol. Insomma, è un campionato molto molto molto particolare. D'altra parte il problema qui, il peccato capitale è la divisione dei diritti televisivi. Real Madrid e Barcellona si prendono il 42% e le altre 18 squadre il restante 58%, no? E questa cosa non cambierà fino al 2016. Non può cambiare, non è che dice adesso, però fino al 2016, per cui noi ancora per degli anni avremo questo duopolio e punto, insomma. Non è, qua si lamentano in molti, si lamentano anche degli orari. Ho visto le prime due giornate partite alle 11 di sera, io li prendo un po' in giro, dico state andando verso il modello italiano, ovvero gente davanti alle TV e stadi sempre più vuoti. Qui fino a 2-3 anni fa gli stadi erano molto pieni, adesso stanno calando gli spettatori. Sì, c'è anche il problema del contesto, perché la Spagna, così come l'Italia, è una delle economie in crisi. Credo sia anche difficile mantenere i numeri anche di presenze allo stadio, certo, di fino a qualche anno fa. Però aiuti poi con orari normali, le partite sono tutte divise, qua già non c'era cultura di viaggiare con la squadra, perché i tifosi, diciamo, ospiti non viaggiano, insomma i numeri sono destinati a calare sempre di più. Però questa è la realtà, loro però si riempiono la bocca con la nazionale, che ovviamente è un bel riempirsi, nel senso che hanno vinto tutto negli ultimi anni, quindi va bene. La nazionale serve un po' anche a mascherare, ecco, la crisi di un campionato costretto a scoprire nuovi talenti per poi sperare di venderli prima solo in Inghilterra, adesso anche in Italia, ma qui gli spagnoli sono finiti ovunque, anche in Bulgaria, in Grecia o in Paraguay. Insomma, è un mercato, è un po' come noi un tempo si andava a comprare in Sud America, adesso si viene a comprare in Spagna. Sì, poi guarderemo con grande interesse la sfida tra Ancelotti e Tata Martino. Così, a giudicare il primo mese di lavoro, mi sembra che l'impatto di Ancelotti sia assolutamente positivo sul Real Madrid. Per il Tata, secondo me, impareremo a capire più avanti, perché ci sono tante incognite, perché eredita un gruppo che è particolare, che è stato anche abituato in parte all'autogestione l'anno scorso, e quindi secondo me bisogna aspettare. Tanto è arrivato tardi. Poi quando ha capito dove era finito con un tour tra Israele e Palestina, Asia, con più, diciamo, atti commerciali che amichevoli, migliaia di chilometri in aereo, si è messo le mani nei capelli. Per me è stata un'ottima scelta da parte del Barça, quella di prendere Martino. Probabilmente andava fatta prima, nel senso che insomma le condizioni di salute di Villanova non promettevano nulla di buono. Però aveva ragione Cruyff. Per cui il povero Martino ha avuto molto poco tempo per lavorare. Ancelotti mi sembra molto molto positivo. L'impatto qua si sapeva, a Madrid c'era bisogno di pace, e Ancelotti col suo sorriso ha portato la pace, e poi si è portato sotto il braccio anche Zinedine Zidane, che si mette a fare i suoi torelli, le sue partitine con i giocatori, lui è contento, loro pure, e quindi si è creato un buon clima. Adesso poi ovviamente ci vorranno i risultati. Consideriamo che l'anno scorso il Real Madrid Mourinho a fine settembre aveva già 8 punti di distacco dal Barça, quindi praticamente la Liga era già finita. Ecco, questo è un po' il rischio, no? Praticamente queste due squadre non possono nemmeno pareggiare, perché tu sai che se pareggi il tuo rivale può far meglio, può vincere, quindi ti frega 2 punti o 3 su una partita secca. Però per me, io dico, per quello che si è visto finora, insomma, Ancelotti si sapeva e si conferma, era l'elemento che giusto serviva per questo Real Madrid. Sì, prima pagina di Marca di settimana scorsa, foto Ancelotti e Mourinho insieme a Miami, il Real Madrid Carletto campionato ha sotterrato i fantasmi. A proposito di Mourinho, parte anche la Premier League in questo fine settimana, domani Liverpool Stoke City, ore 13:45 è la prima sfida. Anche qui mi sembra che manchino dei punti di riferimento, perché è tornato Mourinho, ma è tornato nell'anno in cui per paradosso sono spariti gli altri grandi nomi. È il primo campionato senza Ferguson in Inghilterra, nemmeno se lo ricordano, credo, l'ultima volta che Ferguson non era seduto sulla panchina di un qualunque club, ma di Manchester United in particolare. Sì, è un, io vedo il Chelsea favorito, secondo me, per la Premier League, perché bisogna pensare, l'Arsenal continua a essere incompiuto, così come il Liverpool. Il Manchester City ha preso Pellegrini, ha fatto per me un'ottima campagna acquisti tra Navas, Negredo, no, Fernandinho, hanno, per me hanno fatto bene, però è un altro allenatore nuovo che si dovrà adattare alla Premier, e secondo me soffre un pochino un piccolo complesso di inferiorità nei confronti di Mourinho. David Moyes non ha mai vinto niente, quindi dovrà cominciare a vincere, e bisogna vedere come sarà il suo impatto sul sì, Manchester United. Filippo, non si accettano scommesse su quanto ci metterà Mourinho a rinfacciare gli zero titoli a tutti e due. Esatto, insomma, vediamo come si mette. Io ho visto un Mourinho molto normalizzato, un po' depresso, un po' l'esperienza spagnola lo ha segnato, lo ha toccato nel vivo, perché non ha vinto quanto pensava, ed è stato, ha visto rompersi malamente la relazione con i giocatori, che è sempre stato il suo caposaldo, ha perso molte delle sue certezze. Io non sono tanto sicuro che sia una buona mossa, questo matrimonio, questo diciamo rimatrimonio tra Mourinho e Abramovic è un po' di convenienza, vediamo come va a finire, però in campionato vedo il Chelsea più solido degli altri, però sì, c'è anche l'incognita Tottenham, vedremo come va a finire, però in generale mi sembra che sì, vediamo quanta polemica vuol fare Mourinho. Per ora mi sembra che le polemiche le abbia tutte rivolte verso il suo ex club, facendo anche una figura abbastanza barbina, prendendosela con Ronaldo, con lo stesso Madrid, e poi alla fine ha anche perso, insomma, vediamo. Io non sono curioso un po' di vedere come questo Mourinho post Spagna, però ripeto che in Inghilterra, per come vanno le cose, dovrebbe ancora essere per me il favorito della Premier League. Comunque è affascinante questa scelta del Manchester, del calcio, di affidarsi a due gregari di lusso, perché Pellegrini non più tardi di 3 mesi fa è arrivato a 30 secondi da eliminare il Borussia Dortmund in Champions League, Moyes in fondo l'aveva scelto lo stesso Ferguson qualche anno fa per fare il suo vice, però restano due gregari di lusso, e da questo punto di vista una sfida affascinante. Sì, sicuramente, io dico, Pellegrini gran persona, grande allenatore, è molto bravo con le squadre piccole o in difficoltà, cioè lui ha queste due grandi fiori all'occhiello, le campagne in Champions con Villarreal e Malaga al loro debutto, le ha portati a un passo, uno dalla finale all'altro dalla semifinale, cioè, grandissime prestazioni. Bisogna vederlo in una realtà dove è obbligatorio vincere. Secondo me la grande, lui dovrà ovviamente far meglio di Mancini in Europa, perché alla fine a Mancini ciò che gli è costato è stato queste disastrose campagne europee, e Moyes sì, è una scelta continuista, anche lì per me corretta, però bisogna vedere, bisogna fare il salto a ovviamente una rosa differente, l'abbiamo visto con tutti i problemi per esempio legati a Rooney, no? Sono immediatamente emersi, li aveva già avuti Ferguson, adesso sono immediatamente scoppiati con l'arrivo di Moyes. Comunque c'è da dire una cosa, che Ferguson non è che è andato via, perché è in ufficio in un piano più alto, quindi una supervisione ci sarà, insomma, non è che proprio lo United è orfano di Sir Alex. Secondo me se ci sono problemi grossi, Sir Alex scende giù dalle scale e tira fuori il suo asciugacapelli, il suo hair dryer. E una mano la dà di sicuro. Grazie Filippo. Grazie a voi. Grazie. Tutti convocati. E allora parliamo di pallacanestro, tutti convocati, perché oramai comincia a mancare poco all'Europeo di Slovenia, e allora abbiamo convocato il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio. Per chiedere, dopo questa lunga fase di preparazione, quale Italia dobbiamo aspettarci, che cosa si sta regalando, guardando alla Slovenia, a livello di ambizioni, che Italia sarà? Ma diciamo che la preparazione sta andando avanti bene, purtroppo con infortuni piuttosto pesanti per noi, perché mancano dei giocatori di primo livello, giocatori che certamente potevano migliorare, però non dobbiamo fasciarci la testa, fino alla fine speriamo in qualche recupero. La realtà è che saranno campionati europei molto difficili, e siamo in un girone in cui ci sono almeno tre squadre che potrebbero diventare campioni d'Europa, parlo della Turchia, parlo della Russia e parlo della Grecia, e noi giochiamo in quel girone, però si parte tutti da 0-0, ci sono buoni giocatori da parte nostra, abbiamo un grande allenatore, grandi collaboratori di Pianigiani, una federazione molto ben organizzata, quindi io ci credo per fare un buon campionato europeo. Noi possiamo promettere la luna, però l'Italia adesso non è più l'italietta di un tempo. Sì, ci sono Turchia, Grecia e Russia, poi insieme all'Italia ci sono anche Finlandia e Svezia, lo ricordiamo, bisogna arrivare nelle prime tre per superare almeno il primo step, quello del girone. Io credo, Presidente, che dopo anni di delusioni anche cocenti, il primo obiettivo di questa avventura in Slovenia e il primo obiettivo di questa nazionale sia quello di tornare a farci sentire grandi, a farci capire che sul parquet insieme agli altri ci possiamo stare con un gruppo che ha comunque grande talento, che Pianigiani sta forgiando con la parola d'ordine del carattere, dell'orgoglio. Dobbiamo tornare a essere l'Italia che eravamo abituati a essere. Ma quello già ci siamo riusciti. Io sono convinto che tutto il mondo del basket, parlo adesso di quello europeo, sa dell'importanza e della forza di questa Italia. È chiaro che, vede, io sono stato 14 anni presidente del CONI. Tutte le medaglie sono importanti, ovviamente, di tutte le discipline sportive, non sta a me dire quali sono quelle, se sono più o meno importanti alcune medaglie, però ci sono alcune discipline sportive, basket in modo particolare, dove la concorrenza delle nazioni è in tutto il mondo. Proprio la settimana scorsa i giornali pubblicavano che la prima federazione come nazioni aderenti, chi sono le prime due federazioni? Sono basket e pallavolo. Poi c'è l'atletica leggera e poi c'è il calcio. Quindi significa che se tu emergi in queste discipline, veramente sei completamente il più forte del mondo, tra i più forti del mondo. L'Europa ha 53 nazioni e nel basket sono le nazioni più forti che stanno in Europa. Poi se noi mettiamo gli Stati Uniti, è quello poi la classifica. Sì, l'Argentina un anno sì, 4 anni no. Per cui il campionato europeo è un mondiale si può dire. Questo per dire che noi ci misuriamo in un contesto fortissimo. Secondo me la speranza, anche se poi giustamente ricordato ci sono stati gli infortuni, gli incidenti di preparazione, la speranza viene però dal fatto che raramente in passato abbiamo avuto un gruppo così ricco di talento, così omogeneo, mi sentirei di dire. È vero, e con la voglia di venire in nazionale. Quello che mi dispiaceva tanto quando non ero nel basket era quello che leggevo dai giornali, che c'era qualche possibilità, qualche giocatore che faceva finta di voler venire e poi non veniva. Questa volta questo non l'ho trovato. Io ho lavorato con i più grandi campioni dello sport, con i grandi campioni del calcio, da Buffon, Totti, Del Piero, Pirlo, e quando c'è una convocazione della nazionale, anche di partita amichevole, rispondono sempre sì. Nel basket in passato sentivo, leggevo e capivo che c'era qualche piacere a non venire. Questa volta non è successo. Secondo lei cosa è cambiato rispetto al passato? Ma che stanno capendo la forza della nazionale. Loro possono vincere tutto, possono vincere i campionati italiani, le coppe dei campioni, ma indossare la maglia azzurra ti dà quella gioia e quella soddisfazione che nessun'altra manifestazione te la può dare, perché rappresenti, oltre che il tuo paese, devi emergere anche per dimostrare ai tuoi cari, agli altri che ti vedono, che sei il numero uno, e i nostri devono essere numeri uno. C'è stata da questo punto di vista un po' di polemica per il forfè di Hackett. La vostra posizione qual è? Perché c'è chi ha scritto che l'atteggiamento del giocatore non era piaciuto tanto né a Pianigiani né alla federazione. L'infortunio c'è, quindi per carità, legittimo che alla fine lui chieda di potersi fermare, di poter fare un'estate per preparare poi la stagione in maniera adeguata, però probabilmente vi attendevate qualcosa di meglio anche dal punto di vista della comunicazione. ma vede, sta a me adesso agire col buon senso. Sono il presidente della federazione, io voglio chiudere questa vicenda. La verità la sappiamo noi e la sa che basta questo. Non mi interessa adesso sollevare alla vigilia dell'Europeo una discussione. Io dico che venire in nazionale è la cosa più bella e affascinante. Guardare i campionati europei è un'altra cosa. Le dice che si convincerà Hackett che no, no, io non ho di quello che ha perso. Non voglio, senta, io non ho detto no, nulla si figuri. E non voglio che si deduca nulla. Io dico che la verità la sappiamo noi e la sa che, e quindi voglio chiudere qui da questa vicenda. Certamente, la notizia di Datome che sbarca, quarto italiano nell'NBA, come la dobbiamo prendere? È l'ulteriore conferma di un processo di crescita del nostro basket? Senta, io ho incontrato nei raduni che abbiamo fatto a Folgheria e a Trento i nostri giocatori. Devo dire che proprio quelli dell'NBA stanno dimostrando, insieme agli altri ovviamente, una determinazione e una voglia di far bella figura con la nazionale. Questi sono giocatori che hanno indennità superiori ai giocatori di calcio, questo per dire l'importanza, ma per loro è più importante la nazionale e lo stanno facendo con un grande impegno e una grande determinazione. Sono contento per Datome, perché Datome è il giocatore ideale che ama il basket, gioca a basket, ma legge, parla anche di altro. Io non amo quelli monoculturali che parlano solo di una cosa. Datome è un esempio straordinario, insieme a Bellinelli. Abbiamo una bella nazionale che si interessa di tutto quello che succede intorno al nostro e al loro mondo. La buona notizia, Presidente, è che quest'estate ci ha detto che dietro questi quattro fenomeni che vanno in NBA, dietro un gruppo importante anche di giocatori che lavorano e popolano la nostra Serie A, c'è però anche dell'altro. È stata l'estate del titolo europeo, ad esempio, dell'Under 20 con Sacripanti, segnale che comunque anche nei momenti bui si è seminato qualcosa e che adesso piano piano sta emergendo. Ma questo è il merito dei miei predecessori, perché si diceva che non c'erano giocatori italiani, che i giocatori italiani non giocavano. Quest'anno hanno giocato un po' di più, non tantissimo, io mi augurerei ancora di più. Il mio sogno è avere a referto 5-5 o 6-6, 6 italiani e 6 non italiani, o 5 italiani e 5 non italiani. E però devo dire che i risultati che abbiamo ottenuto, non solamente al maschile, anche al femminile, danno la dimostrazione che questa federazione, chi ha lavorato prima di me, parlo di Tino Meneghini, ma anche prima di Fausto Mefredi, ha lavorato bene, per cui i risultati si vedono anno dopo anno e ci sono generazioni. Io ritengo che stiamo imboccando la generazione che ci può portare a buoni risultati. Ci sono anche le altre nazioni, ovviamente, non solo noi. Sì, non siamo solo noi. Per chiudere, Presidente, abbiamo ancora un minuto. Noi abbiamo tessuto le lodi di quello che sta succedendo all'interno del movimento. La nazionale ne è l'espressione migliore e speriamo che l'europeo lo confermi. Le chiedo invece se la stagione che partirà, quella del campionato, con i tagli di budget, con molte piazze che hanno fatto fatica, con Roma che ha rinunciato all'Eurolega, è da questo punto di vista una sorta di anno zero per il nostro basket, almeno il basket delle nostre società. L'anno della risalita, le crisi per il seguamento aiutano, la mia non è un ossimoro, tante crisi aiutano tutti i movimenti a rilanciarsi e quindi io sono convinto che questa crisi che c'è nel paese, quindi lo sport ovviamente ne risente, non può che far alambiccare il cervello dei presidenti e dei dirigenti a diminuire le spese, a diminuire anche gli ingaggi, a spendere di meno ma a fare squadre buone. Gli italiani ci sono, si investono sugli italiani, i risultati verranno come stanno venendo e quindi vedrete che questo sarà un campionato ancora più interessante. L'ultimo che abbiamo passato è stato bellissimo, è vero che ci hanno lasciato giocatori molto stanchi per le 7 partite, però oggi la realtà è questa, capisco la Lega non poteva fare diversamente e poi ci ha dato anche un periodo di preparazione per il prossimo campionato per i giocatori della nazionale. Abbiamo un allenatore a tempo pieno che sarà lui il dominus di tutta la parte tecnica, non solamente della nazionale maschile ma anche femminile, anche dei centri tecnici che saranno su tutto. Sì, c'è un'organizzazione che tutto il sistema si sta dando. Capillare, quindi questo ci fa ben sperare. Diciamo, mi dico da solo in bocca al lupo. No, glielo diciamo anche noi, per l'amor del cielo, in bocca al lupo, e saremo ovviamente da settembre a raccontare l'avventura della nostra nazionale. Radio 24 sempre molto attenta al mondo della pallacanestro. Grazie al presidente Benedetto. Grazie. Grazie a voi, complimenti. Grazie al presidente Petrucci. Grazie al presidente Petrucci. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio e saluto Franco Piantaneda, autore di questa puntata, Carmelo Lauricella in regia. L'appuntamento è lunedì a partire dalle ore 14. Torna Carlo Genta. Un buon proseguimento di giornata a tutti.